Letture di Radio 24. Una volta terminato l'esodo, i migranti arrivati in Italia rappresenteranno una risorsa o diventeranno un elemento di disgregazione? Se lo domanda Susanna Tamaro in un articolo pubblicato lunedì scorso sul Corriere della Sera. Guardando le immagini delle torme di bambini che marciano per settimane insieme ai loro genitori nelle condizioni più estreme, mi sono resa visivamente conto della fragilità in cui versa la nostra società, che spinge ormai i suoi figli in carrozzina fino quasi alle soglie dell'età scolare e alla stessa epoca, in sempre più casi, li disabitua all'uso del pannolino. Di questo disagio, di questo straniamento, nella nostra società prostrata davanti all'altare dell'esasperato narcisismo si parla poco, perché parlarne vorrebbe dire affrontare altri livelli di discorso. Primo tra tutti, quello della distruzione sistematica di tutti i valori che hanno permesso al nostro paese e agli altri paesi europei di avere radici profonde e di produrre una cultura ammirata ed esportata in tutto il mondo. Così, quest'esodo biblico, che tanto e per tante ragioni ci turba, appare in primo luogo come un'improvvisa e imprevista iniezione di vitalità. Quando una società diventa debole, confusa, capace solo di seguire i fantasmi della sua mente, non più calibrata sulla concretezza della realtà, attira, direi, quasi spontaneamente, l'energia di mondi più giovani, più forti, capaci di emergere per la compattezza e la profondità delle loro radici. Popoli affamati di vita contro popoli che della vita non sanno più che cosa farsene. Popoli che conoscono la ferocia della sopravvivenza, la durezza di condizioni comunque sempre estreme, contro popoli per lo più assopiti in una dimensione larvale, capaci di risollevarsi dal sonno soltanto per esaltare l'alimentazione crudista o compiere battaglie epocali come quella per l'abolizione del maschile e femminile, la misera fola culturale che continua a infestare la nostra società. Abolire ogni differenza, ecco il ruggito terminale del nichilismo. Né maschio né femmina, né giorno né notte, né bene né male, né vita né morte. La polarità che da sempre regge il mondo e che con il suo movimento dinamico crea tutto ciò che esiste, viene finalmente annullata. Nessun condizionamento deve tarpare le ali della nostra libertà. Gli estremamente liberi, allora, come si potranno relazionare con gli estremamente vitali? Quando l'emergenza sarà finita, come sarà possibile mantenere un equilibrio positivo per entrambe le culture? Una scuola in Germania, che si trova nelle vicinanze di un centro per rifugiati, ha chiesto alle ragazze di vestirsi in modo più acconcio per non urtare la sensibilità degli ospiti. L'ospitalità è sacra e quando si tratta di ospitare persone in fuga da guerre e persecuzioni è doppiamente sacra. Però, nella sua sacralità, ha delle precise regole che devono essere rispettate da entrambe le parti. E oltre alle regole, richiede un sentimento fondamentale che è quello della gratitudine. Senza questi due capisaldi, rispetto e gratitudine, con molta facilità si trasforma in qualcos'altro. Un mondo fluttuante come il nostro, che ha rinunciato alle sue radici più profonde, timoroso e pavido nell'affermare i propri valori, in che modo potrà rapportarsi con persone dall'identità così forte? I processi di integrazione richiedono sempre tempi molto lunghi e la via preferenziale per ottenerli sono i bambini, quando viene loro permesso di inserirsi in un contesto positivo. Ma questo, purtroppo, non sempre avviene, perché per istinto gli esseri umani amano stare con chi gli è più simile e diffidano di chi è diverso. Lo spauracchio del razzismo ci impedisce spesso di vedere questa realtà. I gruppi etnici tendono a proteggersi con una struttura chiusa e difficilmente si aprono verso ciò che viene percepito come estraneo. Conosco persone che da più di 20 anni vivono in Italia e non hanno imparato più di 200 parole della nostra lingua. Cosa succederà poi di tutti quei giovani maschi soli provenienti dall'Africa subsahariana o da altri miseri paesi che bighellonano nella maggior parte dei giardinetti pubblici italiani in attesa dei lunghissimi processi di valutazione della richiesta di asilo? Non rischiano di innescare situazioni esplosive? Un paese come il nostro, in cui le famiglie in buona parte dei casi non arrivano a fine mese, non può vedere di buon occhio questi ragazzi che vagano senza meta per le nostre strade e che vengono mantenuti dal denaro pubblico. E chi dà loro i soldi per affrontare un viaggio così costoso, quando nei loro paesi il reddito annuo si aggira intorno ai 200 euro? Con la stessa cifra non avrebbero potuto iniziare una qualsiasi attività, anche modesta, dalle loro parti, contribuendo così al cambiamento della loro terra. Che peso hanno nell'immediato e che peso avranno nel futuro queste presenze? Saranno una risorsa o diventeranno un elemento di disintegrazione? Molto dipenderà, credo, dal nostro comportamento, dal nostro saper essere veri ospiti, capaci di stabilire e imporre le regole del rispetto e della reciprocità. Se invece ci ridurremo nello stato larvale, balbettando incerti davanti ad ogni richiesta, arretrando e cedendo ogni giorno, convinti in fondo che nella nostra civiltà non ci sia granché da difendere, non occorre avere la sfera da veggenti per renderci conto che il paese in cui vivranno i nostri nipoti sarà molto diverso da quello che fino a qui abbiamo conosciuto. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Susanna Tamaro, I migranti in arrivo, le regole da rispettare, dal Corriere della Sera del 28 settembre. Siete qui, naufragati tra noi, da frontiere lontane. Siete qui, nella libera Europa, a dormire in stazione. Scorso, il Presidente del Consiglio ha pubblicato un video per celebrare i risultati del programma di governo, alla luce dei dati Istat che dimostrano come la disoccupazione sia diminuita, scendendo per la prima volta sotto il 12%. Peccato però che la ripresa dell'occupazione non riguardi tutti gli italiani, perché tra i giovani invece la disoccupazione continua a salire. Segno che il Jobs Act ha funzionato fino ad un certo punto e che i giovani, più che del taglio delle tasse sulla casa, avrebbero bisogno di una crescita della banda larga, commenta Francesco Cancellato in un articolo pubblicato su L'Inchiesta. Sarebbe troppo facile prendersela col Premier. Dire che il suo è un governo giovane che non fa gli interessi dei giovani. In parte è vero, e la timidezza con cui Renzi affronta il tema dei diritti acquisiti è sintomatica, così come grida vendetta la ritrosia nel mettere mano alle normative che riguardano il mondo dei freelance e delle partite IVA, la vera porta d'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, non solo per ragioni di costo, ma anche perché è lo strumento più adatto per chi vuole intraprendere la strada delle nuove professioni terziarie. Dato a Renzi quel che è di Renzi, tuttavia, qualcosa non torna comunque. Decontribuzione e Jobs Act sono strumenti neutri rispetto all'età del lavoratore. Funzionano con tutti. Se la porta d'ingresso del mondo del lavoro rimane stretta, quindi, i motivi sono anche e soprattutto da ricercare nel sistema economico italiano nel suo complesso. Non nel cuneo fiscale, quindi, ma nell'incapacità di mettere a valore le competenze dei giovani, in quello che gli esperti del mondo del lavoro chiamano mismatch tra domanda e offerta. Se le cose stanno così, allora forse la banda larga produrrebbe effetti occupazionali ben più consistenti del Jobs Act, così come una politica industriale che incentivi la digitalizzazione delle imprese esistenti o la nascita di nuove start-up digitali. Un paese come l'Italia di oggi ha bisogno di adattare la propria struttura produttiva ai lavori delle generazioni più giovani e alle loro competenze. Ha bisogno di imprese in cui conti più la capacità di innovare, dell'esperienza. Ha bisogno, in altre parole, di una politica industriale a misura di nuovi saperi. Tagliare le tasse sul lavoro è giusto, ma non basta, quindi. Nicchiare sulla banda larga e usare i margini di flessibilità per tagliare quelle sulla casa, come sta facendo il governo, è invece un clamoroso errore di prospettiva, perché magari recuperare mezzo punto di PIL senza incremento dell'occupazione giovanile serve a Renzi per presentarsi più forte alle urne, ma di sicuro per costruire il futuro non serve a nulla. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesco Cancellato? Ai giovani serve la banda larga, non il taglio delle tasse sulla casa. Pubblicato il 1 ottobre sulla rivista online L'Inchiesta. Quante volte ci è capitato di parlare con qualcuno che, anziché mostrare interesse per quello che stiamo dicendo, continua per tutto il tempo a smanettare con il cellulare, magari facendo ogni tanto un cenno con la testa, come dire «sì, sì, ti sto ascoltando». Questo atteggiamento poco simpatico ha un nome, si chiama fabbing, forma abbreviata per l'espressione phone snapping. Si tratta di un vizio molto più diffuso di quanto si pensi, come dimostra un recente studio realizzato da James Roberts e Meredith David. Piazzare il telefono di fronte alla propria faccia, ingombrando il campo visivo con l'interlocutore, oppure sfoderare il dispositivo, sempre che non sia già adagiato, per esempio, di fianco alle posate, ogni volta che la conversazione perde un po' di intensità e interesse. E così via. L'indagine di Roberts e David dimostra che il 46,3% degli intervistati ha dichiarato di essere stato vittima di simili, sgradevoli trattamenti. Ma le sorprese arrivano da altri risultati. Più di un terzo ha riconosciuto che non ricevere la giusta attenzione dal partner, impegnato come se non ci fosse un domani ad adorare il suo manitù digitale, ha provocato una certa tristezza, almeno in qualche occasione, e il 22,6% ha riconosciuto che sì, quella roba ha scatenato problemi nella relazione. Quel che abbiamo scoperto è che quando qualcuno percepisce che il proprio partner lo sta ignorando, dedicandosi al telefono, questo crea dei conflitti e conduce a più bassi livelli di soddisfazione nella relazione, ha detto Roberts. Questi bassi livelli portano a loro volta a minore soddisfazione quotidiana e magari ad elevate soglie di depressione. Ennesima testimonianza, se ancora ce ne fosse bisogno, che l'ecosistema in cui siamo immersi sta cambiando, quasi sempre, senza che ce ne rendiamo conto, e sta costruendo mutamenti profondissimi nel modo in cui ci relazioniamo. Un lavoro chirurgico al quale non riusciamo a contrapporre un'ecologia decente, cioè una nuova grammatica delle relazioni con questi oggetti, che tante opportunità producono, ma altrettanti fronti spalancano negli equilibri quotidiani. Anche e soprattutto nelle situazioni più minimali, come una cena fuori o una serata di relax sul divano. È l'essere in carne ed ossa che vive o in quel momento trascorre il suo tempo con noi, dicono simili indagini, a divenire l'ingrediente sbagliato, il motivo di disagio rispetto a un flusso comunicativo ininterrotto che transita dalle protesi digitali. Conviene davvero darsi una regolata, perché sta diventando un discorso di dignità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Simone Cosimi, Che cos'è il fabbing e perché rovina i rapporti sociali, pubblicato il 1 ottobre sulla rivista online Wired. Con Radio 24 è tutta un'altra domenica, con grandi conferme e nuovi acquisti, con una nazionale di grandi nomi. Pino Insegno, Maria Latella, Rosita Celentano e Angelo Vaira, Pierluigi Pardo, Filippo Astone, assieme ai conduttori più noti del palinsesto della radio, Giovanni Minoli, Gianluca Nicoletti, Enrico Ruggeri, Gegè Telesforo, Alessio Maurizi e tanti altri. Una domenica per pensare, riflettere, emozionarsi e divertirsi con le storie, le voci più belle del cinema, la musica d'autore, la grande attualità e il racconto della storia, la vita delle donne e uno speciale processo al calcio che non può mancare nella domenica degli italiani. Su Radio 24 la passione si sente e la domenica l'emozione si vive. Letture di Radio 24. Oggi le streghe non abitano più a Salem, ma questo non significa che la magia nera sia scomparsa. Sulle pagine di Il, Guido D'Antona percorre i nuovi luoghi del paganesimo mistico. Sono stato a Poughkeepsie e a Peekskill, tutti i luoghi della magia oscura e delle persecuzioni del Settecento. Delle streghe non è rimasto niente, se non qualche piccolo museo che vorrebbe inquietare, ma che, quando non lascia indifferenti, diverte. Eppure di streghe gli Stati Uniti sono ancora pieni. Il paganesimo è praticato da 1,5 milioni di persone, la maggior parte delle quali adepte alla Wicca e al neodruidismo. Magia bianca soprattutto. Ma niente vieta la pratica della magia nera. Finché tiene i propri riti abbastanza lontani da occhi facilmente impressionabili, limita al minimo gli spargimenti di sangue e relega le orge all'interno di una cerchia ristretta di adulti consenzienti. Il più grande centro per la pratica del paganesimo spirituale, ovvero legato al culto della luna e degli spiriti dei boschi, si trova nella Bay Area di San Francisco. A fondarlo è stata una donna di nome Morpheus, venuta in contatto con le proprie doti magiche durante il terremoto che le ha quasi distrutto la casa di famiglia all'età di 15 anni. Da allora sostiene di poter parlare con la luna e sentire le voci delle madrine antiche che l'hanno guidata nella costruzione del Tempio della Vicca. Le streghe stanno facendo consorzio più che congrega. La Vicca, benché si rifaccia a pratiche medievali, è stata inventata in Inghilterra nel 1950 e importata in America, dove ha trovato terreno fertile e una tolleranza alimentata dal senso di colpa per le sviste passate. Non ha niente di minaccioso, forse perché si accosta alle pratiche New Age, triangoli magici operati da fricchettoni mistici. È nelle religioni animiste africane, praticate da quasi 100.000 credenti, che si annida la forza oscura. Il voodoo al sud è una questione piuttosto seria, come la Yoruba tra gli haitiani di Brooklyn e la Santeria tra i portoricani di Harlem. Sacrifici, evocazioni dei morti, possessioni, le streghe che fanno paura. Alex Marr racconta il paganesimo in un saggio intitolato Witches of America, in cui riflette sulla natura effimera delle credenze. Ha visto i druidi cantare le neni ai sabba ed è giunta alla conclusione che non sono tanto diverse dagli inni delle religioni tradizionali. Si tratta di credere nella magia, per pochi o socialmente condivisa. Le streghe sono qui per restare. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Guido D'Antona, Ritorna alla magia nera, dal numero di ottobre del mensile Il.